Io mi chiamo Tamara Bartolini, ho 37 anni, lavoro in teatro, sono attrice, autrice e regista. Lavoro con il corpo, lavoro guardando i corpi, raccontando i corpi. Penso che sui corpi è scritto sempre tutto, lo dico sempre. Dico sempre che sui corpi è scritta la storia. Abbiamo incontrato un libro dimenticato perché non è stato mai più pubblicato, La rivolta di Piazza Statuto di Dario Lanzardo, un primo libro inchiesta edito da Feltrinelli negli anni 70. Raccontava delle giornate di Piazza Statuto del 62 in cui tantissimi corpi di immigrati del sud a Torino a lavorare alla Fiat hanno messo a ferro e fuoco la città, rivendicandoselo, dichiarando di essere protagonisti di quel tempo, di quelle piazze, di quelle strade, di quella storia. Ci sembrava molto attuale, ci sembravano molto contemporanei quei corpi, e allora abbiamo cominciato a leggerlo il libro. Abbiamo tirato un filo fino ai nostri corpi che sono qui. C'è un filosofo che amo molto, si chiama Jean-Luc Nancy. Dice: i corpi sono differenze, sono forze, dunque, proprio perché sono differenze. Un corpo è una forza che differisce da altre. Un uomo contro un albero, un cane davanti a una lucertola, una balena e una piovra, una montagna e un ghiacciaio, tu ed io. Io mi chiamo Pierpaolo Di Mino, ho 39 anni, sono uno scrittore e uno sceneggiatore, uno pieno di desideri, un po' come tutti. E come tutti, nel fondo dei miei desideri, trovo un'ansia di libertà e giustizia. È quello che ti spinge a lottare, perché se non si lotta è inutile lamentarsi che chi ci governa è peggio di noi. Questo lo diceva anche Platone. Platone era un signore che è vissuto in un'epoca molto simile alla nostra, perché è vissuto sotto una dittatura, quella dei 30 tiranni, che non andò al potere solo per un colpo di Stato, ma perché le persone erano state convinte che l'uomo è la misura di tutte le cose, cioè che la verità e la giustizia e la libertà fossero concetti manipolabili, e chi aveva più mezzi per manipolarli andava al potere. E così un gruppo dirigenziale poteva manipolare gli altri per fare quello che gli pare, per fare guerra, per inquinare, per rendere tutti schiavi. Platone diceva che un regime di questo tipo è fatto in questo modo, che pochissimi detengono tutto il potere e tutte le ricchezze, e tutti gli altri sono poveri e non liberi, e non hanno accesso alla cultura. E Platone ha lottato contro tutto questo qua in tante maniere, 2-3 volte si è fatto anche mettere in prigione, ma soprattutto ha lottato con la cultura. Lui per cultura però non intendeva scrivere un libro, non è che gli piaceva molto la scrittura, e neanche sedere in cattedra. Lui per cultura intendeva aprire un dialogo con gli altri, per cercare con gli altri, parlando, che cos'è il bene, che cos'è la verità. Spesso si metteva in un banchetto come questo, in un simposio, e versava del vino, e così bevendo ognuno poteva dire la sua. Insomma, come si faceva una volta in osteria dopo il lavoro, oppure come si faceva nei consigli di fabbrica, dove a dialogare non erano solo le parole, ma anche i corpi e le facce. Talvolta vorrei vederle ancora queste facce. Siamo da noi da Lingotto, Lingotto carrozzeria e distaccamento presso della Mirafiori. Abbiamo deciso di fare sciopero anche perché penso che voi i motivi li sapete, cioè dovuti ai licenziamenti che la Fiat vuol fare. E oggi abbiamo fatto un po' d'assemblea e da un paio di giorni che continuiamo a fare delle assemblee e decidiamo sempre di mostrare alla gente della popolazione di Torino il perché facciamo queste cose. E dunque oggi abbiamo deciso di andare Porta Nuova ad occupare la stazione, anche perché in effetti col treno siamo arrivati dal sud, perché del resto siamo tutti meridionali, e così cerchiamo di dimostrare

non ha. Questo si è visto davanti ai cancelli. Lui si chiamava i compagni alla lotta. E col padrone fa un cenno, una mossa, e un dopo l'altro cominciano a entrare. Oh cara moglie, dovevi vederli, venire avanti curvati e piegati, e noi gridare crumiri venduti, e loro dritti senza piegare. Figlio, che venga a sentire, che ha da capire che cosa vuol dire lottare per la libertà, che ha da capire che cosa vuol dire lottare per la libertà. Sono Lorenzo Iervolino, ho 32 anni, forse si sente anche quello che sto dicendo. Sono un ricercatore e scrittore. Faccio parte di un gruppo di autori che si chiama Terra Nullius Narrazioni Popolari. Lo scorso anno abbiamo fatto una sorta di giro d'Italia, rileggendo e portando in giro questo libro, un altro libro sulle lotte operaie, che si chiama Vogliamo Tutto. Un po' come stiamo facendo questa sera, abbiamo incontrato tantissime persone. E questo libro contiene tante storie con un unico protagonista. L'unico protagonista di cui ora vi leggerò un piccolissimo fatto. Questo era un operaio della Fiat di nome Alfonso Natella, di 24 anni all'epoca dei fatti. Raggiungo i miei compagni e dico: compagni, qua mi vogliono acchiappare per denunciarmi. Quelli mi acchiappano all'uscita, mi mettono un ferro vecchio in tasca e poi chiamano la polizia e mi denunciano come ladro. Ecco come fanno. L'abbiamo sorpreso a rubare e stamattina ha picchiato pure un guardione e mi davano pure 3 anni. Questo era il loro trucco. Mi volevano prendere a tutti i costi. Andavo avanti coi compagni, stiamo attenti all'uscita, perché all'uscita un guardione ti indica, ti fanno entrare in una stanza, ti frugano nella borsa e addosso. E adesso se indicano me, dico ai compagni: io non ci vado dentro alla visita, perché se ci vado dentro sono fottuto. Andiamo avanti, arriviamo al cancello e vedo il capo, il mio capo, in mezzo ai guardioni, 5 guardioni. Fa il capo: è lui, è quello lì. Avanza un guardione, doveva essere il picchiatore della situazione, e dice: tu, no, anzi, lei, danno sempre del lei alla Fiat. Lei venga con me. Ma chi, io? E perché devo venire? Venga con me! Ma non ci voglio venire, venga con me, non ci voglio venire, cosa vuoi tu da me? Perché non è mai passato a rivista lei? Sì, ma stasera non c'ho voglia. E poi non c'ho la borsa, vedi, c'ho la maglia, la sollevo sul torso nudo, c'ho il pantalone e basta, non c'ho niente addosso, hai visto? Ciao! Venga qua, urla lui. Mi prende per il collo questo bestione di merda e mi tira. Allora io studio un attimo come cazzo fare, faccio finta di andare con lui. Poi gli metto un piede davanti e gli do una spallata e pumf, decade per terra come una merda di vacca. gli tiro un calcio nelle palle, mi si buttano addosso altri due guardioni, il primo mi teneva da sotto e questi due mi stavano sopra, riesco a calci, a gomitate, a buttare gli altri due via da sopra di me, adesso io stavo di traverso, addosso a loro, ma con la testa giù che me la teneva stretta il bestione. E a questo punto, un compagno tira il braccio che questo stronzo mi teneva intorno al collo come una morsa, io gli strappo via il braccio, salto su, gli sputo in faccia al bestione e scappo. Poi però prendono il compagno, l'hanno licenziato questo qua perché mi aveva aiutato. Io poi sono uscito fuori, c'erano lì tanti operai e studenti davanti, c'erano davanti al cancello tutti i compagni che parlavano della lotta. Stavano lì i compagni che dicevano che avevo fatto bene a menare i guardioni, che quel giorno era stata una grossa lotta, una grossa soddisfazione, abbiamo fatto la riunione. Sono venuti in massa gli operai nel bar, tanti che non ci si entrava. Eravamo così tanti quella sera che si decise di fare poi le assemblee all'università. E quello fu l'inizio delle grandi lotte alla Fiat. Era stato il 29 maggio quel giorno lì, giovedì. E ora Alfonso Natello è qui vicino a me, non più di anni 24. E in uno dei giri che abbiamo fatto insieme, una volta ci ha raccontato a chi era presente un po' la differenza che c'era secondo lui tra la nostra generazione di oggi e la sua. E mi piacerebbe che lui iniziasse da questo, se ha voglia. Viene sempre. La generazione, quella del dopoguerra, cioè io sono nato nel 45, ha avuto, diciamo, è stata l'ultima generazione un po' terrazzana, cioè pure se io sono nato in città, sono nato ai confini della città, confine fra città e campagna, no? Dove stavo io c'erano addirittura la Lega Bracciantile, si riunivano i braccianti agricoli, quindi pur stando nel comune di Salerno, come dire, Roma negli anni 50 può darsi che c'era pure la Lega Bracciantile a Roma, perché c'erano le campagne. Non c'era ancora, non ce ne stanno neanche più braccianti agricoli, non ci stanno più edile, cioè prima il lavoro si faceva a mano, nell'edilizia tiravi la carrucola a mano, non c'era un battone, insomma l'impasto si faceva a mano vicino a un'impastatrice, mo arriva già fatto con i camion, cioè tutto un altro tipo di lavoro, è assolutamente specializzato e anche il costo di un'automobile lo decide la banca. Quanto deve costare? Prima lo decidevamo noi, con i ritmi, adesso è tutto preconfezionato. Dunque la differenza sono i mezzi che utilizziamo, la plastica, l'informatica, gli ascensori, lo sviluppo della città, dell'edilizia in un certo modo, delle macchine in un certo modo, pure i sistemi produttivi in un certo modo, decisi a tavolino dalle banche, insomma, i direttori di banca sono anche direttori di fabbrica oggi. Non lo so, ma penso che sia così. Questo non lo voglio dire, qualcuno distrattamente pensi che io so come funziona la fabbrica. Lo immagino, lo so, ma non ho le prove, come diceva qualcuno. E perché la macchina dovrebbe costare al massimo 300 euro, un'automobile adesso. Perché è di plastica. Quando c'erano gli stampi delle macchine con la carrozzeria di ferro, lo stampo doveva essere divanato in una lega pesante, doveva essere riscaldata a 300-400 gradi minimo e si trasformava la lamina di ferro, no? Nello stampo. Ma con pochi plastici, non ci vanno neanche 50 gradi, 80 gradi, 120 gradi per fare uno sportello di plastica, no? Non ci vuole meno energia elettrica, lo stampo costa di meno perché ci sono materiali meno pregiati, dura di più e che la roba costa di meno. Prima in un'automobile ci stavano mezzo chilo di rame, all'ingrosso, magari di meno, ma cioè un ramo costa, no? Una cosa costosa. Erano tutti fili elettrici, terminali di ottone, tutta roba pregiata. Mo fanno gli stampi in Indonesia, cioè tutto stampato, i circuiti, c'è sta 20 grammi di rame, prima mezzo chilo, mo 20 grammi. E gomma, che è una cosa che è costosissima, mo ce l'hanno un gommino, sono così, così muori pure. Hai capito? È tutto, non costa niente, posso andare a cacca, costa più una macchinetta di un caffè che è di alluminio che una macchina. Non ho le prove, ma è così. E allora, praticamente, perché costano sempre di più queste cazzo di automobili invece di costare 300 euro, costano 300.000 euro? Perché? Qual è il mistero? O spread è kiss. Cioè, praticamente, dice, noi la macchina è da costare sempre tanto, è da aumentare, non è da diminuire. È da aumentare sempre la macchina. Ma perché è da aumentare sempre la macchina? Perché se tu un prodotto domani costa oggi 100 lire, domani 50 lire, scusate se parlo delle lire, ci sono nati, allora tu la cosa ti accatta rimane, non ti accatta oggi, perché costa di meno domani. E allora loro hanno inventato che hanno aumentato sempre i prezzi. Non ho le prove, ma sospetto che... Fanno questo giochetto qua, ci rimane, aumenta sempre i prezzi, cioè ci diffuse questa idea, aumenta, allora tu a cattoggio non rimane una cosa. Perché aumenta? Però allora è naturale la giustificazione, perché sono persone serie, mica come noi, che diciamo le cose senza avere le prove, loro gli danno le prove perché costa di più. Perché i fari, invece di stare qua, stanno più sotto, e costa di più. Hai capito? Prima teneva la manuella a mano, che costava di più perché era di alluminio, ci voleva la fonderia, o rocchetti di ferro, eccetera, eccetera. Invece poi per un bottone costa di meno, e però è una novità. C'è sta pure la femmina nura che la venne, una novità. E quindi costa di più. È tutto un trucco. E invece costa tutto di meno. Le case, i uppervalori, tutto di meno. Perché è così, ci sono, non ho le prove, però è così, costa tutto di meno. Pure in agricoltura costa di meno, ci stanno gli schiavi che lavorano in agricoltura, costa tutto di meno. E noi teniamo questo aumento dei prezzi, non potremmo mangiare fra poco per la roba che si è, per le macchine che stanno ferme là, ci hanno rasule, ci mettono la benzina e diamo cammanare. Loro cioè, prima hanno fatto l'automobile e poi ci hanno cammanare a pelle. Questo è il capitalismo, gli uomini. Non ci sta niente a fare. Come eliminarlo il capitalismo? E questa è un'altra discussione che è, insomma è la discussione che è nata con la Comune di Parigi, insomma. Mi fermo qua. Io sono entrato nel 59 alla Fiat, avevo 25 anni. È stato un periodo bellissimo perché diede il via a tutta una nuova concezione della vita da parte mia. Sono entrato come addetto macchina. Avevo chiesto un posto come aggiustatore perché avevo seguito una scuola, avevo una certa conoscenza del disegno. Invece quelli mi mettono a fare l'addetto macchina e là sono rimasto. Ricordatevi che qui alla Fiat non si può sputare nel piatto in cui si mangia e niente contatti con i comunisti. Perché non devo parlare? Cosa sono questi comunisti? E la prima impressione era che i comunisti nella media dei lavoratori erano i più preparati. Erano quelli che leggevano o comunque facevano uno sforzo per leggere qualcosa. La fabbrica era un muro di gomma. Perché aumentavano la produzione ma la paga era sempre quella? Perché a un certo punto in una squadretta dove si facevano 100 pezzi, se mancava la metà degli operai si doveva continuare a fare 100 pezzi? E qui mi vengono in mente tantissimi racconti di amiche, colleghe. Il cottimo è collettivo! Perché non conto niente mentre invece devo contare qualcosa? Com'è possibile che si debba andare protetti dalla polizia a lavorare? Come organizzarsi?

in realtà la mia storia è quella che state raccontando, che stiamo raccontando. Tra il non lavoro, diciamo, e la possibilità dell'espressione artistica, ho fatto questa stronzata di scegliere l'espressione artistica. Ci ho messo un po', devo dire la verità, infatti ho 45 anni, mi corre l'obbligo di parlare di me, quindi lo faccio. E quindi ero quel giorno, l'8 agosto del 1991, davanti a questo televisore nel bar di mia madre. E quel giorno io vedo questi corpi, perché la cosa che mi colpì subito è che queste persone erano nude, e soprattutto che l'altra cosa che mi colpì è che erano ragazzi che più o meno avevano la mia età, erano dei ventenni. Come quelli di Piazza Statuto, erano dei ventenni. Erano ventenni come me, e io ero un ventenne come loro, e mi ritrovai quel giorno, me lo ricordo molto bene, a discutere con gli amici del paese, perché vengo da un paesino di 150 abitanti, cercando di convincerli del fatto che quelle persone lì erano come noi, nel senso che appartenevano alla nostra generazione, ed eravamo la prima generazione di ventenni dopo la caduta del muro di Berlino. E che io ci ho avuto un po' più culo di loro, perché sono nato in un paese in cui non c'era quella forma di comunismo violentissima e repressiva come c'era in Albania, e che a questo tipo di esperienza io potevo dire di essere scampato grazie al fatto che ero il primo di tre generazioni a non dover emigrare. E quindi guardavo questi ragazzi e discutevo con i miei amici del paese dicendo: guardate che siamo noi, su quella nave ci siamo noi, c'è la nostra generazione. Dopo 20 anni, stacco, passano 20 anni e ho l'opportunità di raccontare questa storia. Avevo dimenticato molte cose, devo dire la verità. Quando ho cominciato a vedere le immagini, la cosa che mi ha appassionato di più, che mi ha colpito di più, sono proprio i corpi di questi ragazzi. Hanno messo in gioco se stessi per costruire il proprio futuro, hanno messo in gioco la vita per costruire il proprio futuro, ma l'hanno messa in gioco davvero, perché hanno attraversato il mare con una nave in avaria, in 20.000 su una nave che normalmente trasporta non più di 15 persone, arrivano al porto di Bari presidiato dall'esercito e vengono chiuse in uno stadio. Che cos'è che viene chiuso in questo stadio? No? Mi sono sempre chiesto: ma come si fa in un momento, diciamo, di pace sociale così, a utilizzare certi metodi? No? Per utilizzare certi metodi devi sentirti in guerra, perché altrimenti non li utilizzi. È vero che sentirsi in guerra ci vuole poco, no? E la violenza di qualcuno si esercita sempre sul corpo di qualcun altro, prima ancora che sull'anima, no? Prima ancora che sullo spirito, è il corpo che viene messo in discussione, che viene messo in pericolo. Questo purtroppo succede anche nel rapporto tra uomini e donne, no? Dall'inizio di quest'anno sono morte 120 donne, sono state uccise 120 donne dai propri uomini, vuol dire che c'è un rapporto, c'è il potere, si gioca sul corpo, in questo caso sul corpo delle donne, in quel caso che avete visto sul corpo di queste persone che, non resistendo più al proprio regime, diciamo così, repressivo e violento, decidono di andare altrove, in un altrove fantastico, completamente inventato dalla televisione che vedevano tutti i giorni. Fanno questo salto e vanno in questo altrove fantastico e ovviamente sbattono il muso contro una realtà molto più dura di quello che avrebbero, di quello che avevano immaginato. Ora, chiudere questi corpi, questi 20.000 corpi all'interno di uno stadio, è stato un atto di guerra, non c'è dubbio. È stato un atto di guerra deliberato e che ha dato il segno del ventennio che noi abbiamo vissuto e che stiamo ancora vivendo. Quel segno che poi ha fatto sì che diventassero possibili altre cose terrificanti. lo Stadio della Vittoria è stato il primo CIE della storia d'Italia, cioè è stato il primo luogo di reclusione di massa, di concentramento, luogo di concentramento di corpi, di persone che non hanno, tra l'altro, anche se per me non fa nessuna differenza, ma non hanno commesso alcun reato, hanno dei documenti non in regola. Ora, questo primo CIE che conteneva 20.000 persone è stato gestito in un modo tale per cui, secondo me, collettivamente, anche se apparteniamo a classi sociali diverse, se non siamo tutti, diciamo, vicini al potere, anche se siamo molto lontani dalle leve del comando, secondo me noi tutti dobbiamo vergognarci, perché chiudere 20.000 persone in uno stadio, e questi uomini in divisa che erano lì lo hanno fatto a nome nostro, a nome di tutti noi, buttargli da mangiare come si fa con i maiali, tirandoglielo con l'elicottero, lasciandoli scannare tra di loro per andare ad acchiappare dopo 3, 4, 5 giorni, 3, 4 notti a 40 gradi, perché Bari d'estate non perdona, gettando il cibo in questa maniera si è causato un disastro, diciamo, umanitario dentro questo stadio. Le persone si sono massacrate di botte l'una con l'altra, dopodiché li abbiamo presi, li abbiamo buttati indietro. Dobbiamo vergognarcene, perché questa cosa non si fa, gli esseri umani non possono essere trattati in questa maniera, ma dobbiamo vergognarcene anche perché noi non abbiamo capito che lo stavamo facendo contro noi stessi, oltre che contro di loro, perché in questo modo abbiamo costruito una prigione, che è questo luogo dentro cui siamo, in questi 20 anni, siamo stati capaci non di vivere, ma di vegetare. Tamara mi aveva chiesto di contribuire in qualche modo a questa serata raccontando della mia esperienza, che politicamente nasce durante il movimento della Pantera all'università, quindi con Daniele in qualche modo, però ho pensato più umilmente di dare un contributo dando voce alla testimonianza di un operaio di Piazza Statuto, che quindi vi leggerò. È una repressione voluta dall'alto, è chiaro, in una città che deve essere tranquilla. Cioè, capisci che quando vai proprio nel cuore del grosso capitale non si guarda in faccia nessuno. La repressione poi ti inseguiva. Per noi voleva anche dire non trovare più lavoro. Adesso c'è una logica di ricambio, c'è più spazio, c'è ricambio di manodopera. Tu ritieni che quella fosse una cosa grossa come dimensione, ma no, è stata fatta apparire grossa per la violenza che ha adottato Agnelli per estirparla in modo feroce. Se vuoi, sembra una cosa grossa perché è stata cancellata in modo troppo violento. Ma attento a non fare equivoci. Quelle sono vere e determinate lotte spontanee. È vero che in quel momento uno vuole tutto. È stato sempre così e sarà sempre così. Però non bisogna esagerare il peso della questione psicologica della repressione violenta. Bisogna capire il gioco politico che c'è dietro. È chiaro che loro, quando vedono che c'è un qualcosa che ritengono possa levar via una condizione di tranquillità, la repressione è violenta. Oggi la situazione è diversa e c'è lo spazio per la provocazione. Perché sono nate le provocazioni di piazza? Perché la classe operaia, che non ha avuto più spazio in fabbrica, era divenuta talmente forte che non aveva più spazio. E allora, quelle poche volte che vai fuori, ti dicono che ci sta quello che spara, quello che ammazza il poliziotto, ti dicono, vedi, sono sempre dei bastardi. Te lo dicono perché non vogliono che esci fuori. Perché se dovessero lasciare uscire fuori, oggigiorno diventerebbe un pericolo.

Vincenzina vuol bene alla fabbrica. E non sa che la vita giù in fabbrica non c'è. Cammini per le strade e vedi questi fumi che escono dalle strade. Vai sull'alto forno e vedi questo calore immenso. In acciaieria, sui convertitori. Cioè, ci sono tante realtà diverse dove per un giovane che ha studiato, no? Si sapeva che il papà lavorava in Ilva, ma presumo che nessuno di noi si sarebbe aspettato un domani di andarci a lavorare. Quindi, come impatto è traumatico. Lì ci sono ormai più o meno 13.000 persone che ci lavorano, tutte giovani. Siamo arrivati più o meno a 10.500 giovani che vanno da un'età di 18 anni a un massimo di 30. Poi ci sono anche persone specializzate che provengono da altre fabbriche, operai che vanno sui 40 anni. Io entrando lì dentro nel 97 mi dissero di non iscrivermi al sindacato. La vera colpa, se devo essere proprio onesta, l'ho avuta io e altre poche centinaia di giovani, perché io da stupida mi sono cancellata. Però nel momento in cui ho avuto una difficoltà, alla fine mi sono dovuta rivolgere al sindacato. Io mi sono rivolta per un problema personale, perché io ho fatto il cambio col mio papà, perché purtroppo stava poco bene. Mi hanno messo le pulizie civili, ma cosa mi dovevano mai fare? Potevano non rinnovarmi il contratto di lavoro? Quando i ragazzi mi chiedono il sindacato, io non faccio un discorso di film, film, ti serve la risoluzione al problema? Bene, mettiamoci insieme e troviamo insieme la risoluzione. A me non mi serviva l'ideologia, a me serviva una persona che mi desse un minimo di risposta, un minimo di sicurezza, un minimo di fiducia. E forse è questa che manca adesso all'operaio Ilva. Volevi aggiungere, Stefania? Diciamo che all'interno della fabbrica c'è un maschilismo dalla venuta deriva esagerato. Io sono fortunata, cioè, o meglio, nella sfortuna di aver perso mio padre, sono fortunata ad avere un posto di lavoro, perché come diceva prima Mauro, c'è soltanto tanto lavoro nero. Sì, lì lavoro, però ho diritto a delle ferie, se sto male posso fare la malattia. Ho dei diritti che sembrano così basilari, che te li debbano dare in un niente, ma in realtà all'inizio a me l'Ilva sembrava un'isola felice, poi mi sono resa conto delle difficoltà, che posso tenere altre cose che mi spettano. Non andrò mai a chiedere al padrone, a Euriva, alla luna nel pozzo. Chiederò soltanto quello che mi spetta. Concludiamo su questa domanda. La classe operaia esiste. Dunque, la voce che avete ascoltato prima, dico il mio nome e cognome, Ornella Bellucci, sono una giornalista, non faccio la giornalista, sono contrattualizzata in altro modo, sono emigrata per lavoro, la mia città è Taranto. Arrivo alla voce che abbiamo ascoltato, è la testimonianza di una giovane operaia Ilva che ho raccolto un po' di tempo fa all'interno di un confronto con altri delegati sindacali. All'epoca lei faceva riferimento a un tratto in questo sonoro a un Mauro, che era un delegato della FIOM con cui si confrontava quel giorno, e poi c'era ovviamente anche un delegato della FIM. Stefania, perché abbiamo cominciato da lei e dalla sua testimonianza? Perché ovviamente quella di cui andiamo a parlare è una fabbrica fordista, inutile dirlo, una fabbrica maschile. Stefania quindi è una delle poche operaie che vivono la fabbrica dall'interno, ovviamente da un ruolo anche abbastanza importante. Certo, lei, come raccontava, ha preso il posto del padre in quella fabbrica ammalato, non ha mantenuto il suo posto, è stata spostata alle pulizie civili, per cui insomma comunque la sua testimonianza sembrava abbastanza importante. Ci sono altre donne, ma sono per lo più impiegate in ruoli di segretariato amministrativo, dirò così, mentre nell'indotto, che oggi è la zona più difficile da praticare, la zona più magmatica, interdetta del tutto all'azione sindacale, qualche altra donna si vede su contratti capestro, almeno Stefania ha un'assunzione a tempo indeterminato. Dicevo, vengo da Taranto, io mi sono occupata a lungo dell'Ilva, e quindi parlo insomma della fabbrica già di proprietà del gruppo Riva, è stata privatizzata nel 95. Riva, la rilevata dal gruppo IRI, è stata probabilmente uno dei migliori affari fatti dal gruppo. Lo stabilimento di Taranto gli garantisce il 70% della produzione. Alcuni dati li so soltanto perché li ha già anticipati Stefania. A Taranto ci sono circa 200.000 abitanti e il lavoro è per lo più concentrato in quello stabilimento, che è uno dei centri siderurgici più grandi d'Europa. Occupa circa 13.000 dipendenti diretti e circa 3.000 nell'indotto, anche se questi numeri oggi, la situazione la conosciamo un po' tutti, sono suscettibili di piccoli ritocchi. Insomma, c'è stata nei giorni scorsi la chiusura dell'alto forno 1, si prospetta la chiusura di due batterie e in prima battuta era stata colpita l'aria a freddo. Adesso vedremo come andrà, perché insomma l'AIA che in prima battuta era stata percepita come un bluff enorme, anche perché l'AIA, l'autorizzazione integrata ambientale concessa dal governo a Padron Riva, al gruppo Riva, e lì addirittura in prima battuta si diceva che sì, la produzione sarebbe diminuita da 15 milioni di tonnellate d'acciaio l'anno a 8 milioni di tonnellate. In realtà lo stabilimento di Taranto, che garantisce al gruppo Riva, come dicevo, il 70% della produzione, perché il resto gli viene da altri stabilimenti che ha in giro per il mondo, non ha mai prodotto 15 milioni di tonnellate d'acciaio, ma si è assestata intorno ai 10 milioni, per cui insomma è un grande sconto che il governo fa a questo gruppo industriale. Taranto, va detto, è sempre stata una città operaia ed è stata quasi sempre, è stata, come dire, quasi un'anomalia tra i grandi centri del Mezzogiorno, ancora prima degli Italsider, perché insomma quando era partecipazione statale l'Ilva si chiamava Italsider. L'arsenale militare, i cantieri navali avevano dato lavoro a migliaia di persone. E comunque di certo la dipendenza dalle industrie statali ha segnato a fondo la vita della città. Sono stati circa 100 anni di superindustrializzazione statuale, di capitalismo di Stato. Cioè a Taranto abbiamo avuto in qualche modo l'esperimento più vistoso su scala europea di un fortissimo interventismo statale. L'arsenale militare, costruito tra il 1883 e il 1887, ha dato lavoro più o meno fino alla fine della Seconda Guerra Mondiale, e lo stabilimento Italsider, costruito negli anni 60, in realtà insomma, adesso vi faccio un minimo di storia per arrivare insomma a dirvi quali sono stati i mutamenti del lavoro tra pubblico e privato e che cosa oggi in qualche modo da quella città si difende, cioè cos'è il lavoro oggi nella fabbrica dell'acciaio. Dicevo, l'Italsider, costruito nel 62, ampliato negli anni 70 e privatizzato nel 95, è stato insomma l'altro lato di questa. Sono stati sia l'Italsider che l'arsenale emblemi, entrambi, come dire, di uno sviluppo imposto e distorto, ma necessario alla comunità che in quegli anni si lasciava colonizzare. Erano ex barbieri, erano pescatori, erano muratori, erano artigiani, era gente stanca della povertà e fiduciosa nel benessere. L'arsenale e il porto furono il primo richiamo per tanti lavoratori desiderosi di acquisire redditi fissi in forma di salari. Fu quella in qualche modo l'ora della grande cementificazione, dell'esodo dalla città vecchia, che oggi non ha più un centro, e dalle campagne. Taranto diventò all'epoca un'importante base navale. L'industria bellica produceva a pieno ritmo, ma non c'era mercato. L'arsenale militare non riuscì a diversificare il proprio ciclo produttivo e l'indotto che vi crebbe intorno in qualche modo si specializzò soltanto nei servizi, per cui insomma da qui il lento declino. La seconda industrializzazione invece è coincisa con l'avvio del quarto centro siderurgico dell'Iri, con una importante capacità produttiva. La posa della prima pietra, come dicevo, risale al 1960, ma potrei essere più precisa, al 9 luglio del 1960. Allora l'Italsider di Taranto cominciava a marciare accanto agli stabilimenti di Cornigliano, di Piombino e di Bagnoli, ma era il nuovo arsenale con posto fisso e con buoni salari. un ricatto ciclico permanente, un'altra volta, come dire, occupazione e iniezione di benessere in cambio di inquinamento della terra, delle acque, dell'aria e di una forzata emigrazione interna dalle campagne del Salento, della Basilicata e anche della Calabria, per cui anche da qui, insomma, il carattere dell'operaio di fabbrica c'era e c'è ancora oggi un forte pendolarismo. A dire il vero, in quegli anni molti come dire, osannarono le virtù dell'acciaio, ma anche questo era un sistema chiuso. La produzione di un bene finito non porta un indotto diversificato, lo stabilimento anche in quel caso viene calato dall'alto e al suo esterno richiede soltanto macchinari e manutenzione, quindi stessa prassi che abbiamo visto per l'arsenale, appalti di servizio, un centinaio di ditte, tutte specializzate nell'assistenza richiesta. L'insediamento del siderurgico però determinò un ulteriore sconvolgimento del modello territoriale. Fu allora infatti che presero vita le periferie, i quartieri dormitorio e i ghetti martoriati dall'inquinamento. Per gli avventurieri degli appalti la manna nel cielo arrivò negli anni 70, quando l'Ital Sider raddoppiò impianti e produzione. Fu quello il tempo dell'euforia e dei grandi profitti e di centinaia di morti bianche. La fabbrica si estendeva e si estende su un'area pari al doppio di quella urbana, 15 milioni di metri quadri, 60 chilometri di strade, 200 di binari, 190 di nastri trasportatori, centinaia e centinaia di comignoli. Furono le grandi lotte sindacali e politiche degli anni 70, quella che oggi ricordiamo come la vertenza Taranto, a bloccare la disoccupazione di ritorno di coloro che erano stati impiegati nei lavori del raddoppio. Anni duri che contribuirono in qualche modo alla creazione di una seppur flebile coscienza di classe in una città in cui, diciamo, il mito operaio era stato più imposto che cercato. Si arrivò alla privatizzazione dell'Ital Sider quando la comunità europea minacciò Roma di tagliare i finanziamenti. A risollevare lo stabilimento il governo manda un giapponese, tale Yao Nakamura, che dopo aver riportato a 500 miliardi gli utili dell'azienda viene rispedito a casa. I contendenti restano in due, Luigi Lucchini ed Emilio Riva. Si va all'asta in busta chiusa davanti all'allora ministro dell'industria Gnutti a vincere e l'imprenditore lombardo Emilio Riva, capace di sborsare, ma qui lo diciamo soltanto formalmente, 1.400 miliardi di lire, gran parte della somma infatti non è mai stata versata. Così i debiti rimangono allo Stato e Riva entra in possesso di uno stabilimento in cui la produzione è a pieno ritmo, si sta rifacendo con soldi pubblici un altoforno e sono stati già avviati i prepensionamenti per l'amianto. Nel giro di 5 anni Riva si fa conoscere perfettamente dai lavoratori, smantella il sistema degli appalti, affianca i quadri in una gerarchia parallela e scuote la regola del posto fisso con contratti a termine di formazione e lavoro. Questi contratti raramente vengono rinnovati. Dal 95 al 2005, e sono anche anni sensibili per l'azione sindacale all'interno della fabbrica, il ricambio annuo dei dipendenti, poco più di 13.000, è stato del 50%. Oggi la siderurgia in Italia è Riva. In 40 anni il cavaliere è passato dal furgoncino per i rottami all'Olimpo dell'acciaio. Tra le privatizzazioni italiane forse soltanto la Fiat con l'acquisto dell'Alfa Romeo ha fatto affare migliore. Ora la domanda è, scusate mi sono dilungata, come si lavora oggi in quella fabbrica? Cosa produce il lavoro all'interno di quello stabilimento oggi? Avremo la clip 2. Se tu vedi una persona, guarda, è la prima volta che io ho visto morire una persona. E tu vedi una persona che vola, che fa un rumore bruttissimo quando cade per terra. Un ragazzo, guarda, penso che non abbia nemmeno gridato. Una macchina che sta facendo tubo da rullo. E funzionava, veni a prendere quelle due persone. Uno ha fatto gamba proprio, non tagliato però, ha fatto 4-5 pezzi. Uno secondo per operaio ha fatto da spalla dietro un pezzo. Secondo, quello ragazzo... come entra sotto ponteggio e là sopra un martello caduto, c'è là pure il casco ha fatto pezzo, E lui direttamente... Siccome lui è caduto insieme a Mimmo Serio, l'altro ragazzo che stava sopra insieme a lui, lui non è morto, è stato 5 giorni in coma. E io ho chiesto informazioni a lui, ho detto mi deve dire gli ultimi istanti. Niente, mi ha detto che sono saliti sopra a riempire la centralina, che sta a 50 metri d'altezza, sul contrappeso. Aspettavano che si riempisse la centralina. All'improvviso hanno sentito uno scricchiolio, un tipo tra-ta-ta-ta-ta-ta-ta. Dopo un po' dice che lui ha sentito un sibilio, tipo shim! Una delle 8 funi, 2 si sono spaccate. Allora gli è arrivato un filamento in fronte e l'ha buttato giù. Vi siete avvicinati, se potevate avvicinarvi? No, no, non nessuno... Non ci riesce chi ti vai a vedere, diciamo questo primo incidente, non ci riesce ti vai a vedere perché due corpi a terra, perché come ti vedi te... Mi chiamo Miriam Dubini, ho 35 anni e scrivo libri per bambini e ho un desiderio. Il mio desiderio è raccontare tutto quello che Ornella ci ha spiegato così bene, grazie, sì, ne avevamo bisogno perché non tante persone ce lo raccontano così a dei bambini. Perché lo voglio fare? Sembra una cosa un po' pazza forse, perché ci sono bambini a Taranto che hanno il fratello di 3 anni all'ospedale e il papà di 40 che lavora all'Ilva, e questi bambini non sanno più cosa pensare perché vivono in un posto dove li hanno chiamati terroni ma non possono toccare la terra perché il sindaco gli ha detto che è avvelenata. E quando il loro papà esce di casa va in un posto dove ci sono i fuochi, le fiamme, i fulmini, le saette, che sembra un film di quelli che si vedono al cinema, e, però non è un film, è un incubo. E perché non hanno i nonni? Perché molte delle persone di 60 anni sono morte, a Natale non ci sono. Io non voglio raccontare una storia triste, anzi voglio raccontare una storia di fantasia in cui la fantasia salva le persone dalla disperazione, perché lì c'è bisogno della speranza, credo più che in qualsiasi altro posto, perché credo che persone adulte che hanno permesso il profitto, il capitale di soverchiare tutto quello che poteva essere la morale della vita, l'amore per la propria famiglia, ecco, queste persone hanno perso la speranza. Cioè a Genova hanno chiuso tutto quello che a Taranto è rimasto aperto. Ci sono adulti che non sanno, come dire, mettere dei limiti a quanto l'azienda può fare ai lavoratori. Forse i bambini possono farlo, secondo me. Cioè questa è la mia speranza, cioè raccontare cosa non deve succedere mai più, cosa non si può accettare, cosa moralmente deve far scattare veramente una risposta assolutamente fermamente negativa alle nuove generazioni, perché gli adulti devono continuare a lavorare per mantenere loro, per pagare le spese mediche, e perché sono vittime di un conflitto che non si risolve. Invece forse lavorando sul futuro e quindi sulle nuove generazioni, questo conflitto col tempo, non con la rivoluzione perché io non ci credo, ma con l'educazione, può essere portato a miglioramento. Questa è la mia scommessa e spero di riuscire a scrivere un libro che sarà all'altezza. Domenica 8 luglio. Piazza Statuto è più calma. Non mancano però incidenti. Le forze dell'ordine, con alcune cariche, tentano inutilmente di disperdere i manifestanti. Lunedì 9 luglio. Lo sciopero è totale. I picchetti sono quasi inutili perché di operai che si presentano a lavorare non ce n'è traccia. Alle 11 in Piazza Statuto ci sono migliaia di persone e molte stanno già fischiando, urlando, lanciando pietre. Le prime cariche si susseguono regolarmente ogni mezz'ora. Alle 2 del pomeriggio ci sono già 200 fermati e 350 alle 18. Oltre 30 fra jeep, gipponi e camion vengono impiegati nel presidio, nei caroselli e nei rastrellamenti che si intensificano fra le 19.30 e le 20, quando la polizia decide di farla finita.

di essersi appositamente recato a protestare contro la Will e di aver rilanciato i candelotti lacrimogeni contro gli agenti di polizia. Alla domanda del presidente: è vero che avete rilanciato contro la polizia i lacrimogeni? Il Lattarulo risponde: senza dubbio. Volevo che provassero anche loro che bell'effetto che facevano. Buonasera, mi chiamo Marco Lupo e ho la febbre. Sulla locandina che avete letto prima di scegliere se restare a casa o infilarvi le scarpe c'è scritto Marco Lupo, scrittore tarantino. Lo dice il sangue, lo dice la pelle. Lo dico subito. Sono nato lontano dal porto, a migliaia di chilometri dai quintali di mercurio disciolti nel mare che bagna la città. Sono nato in una città tedesca, Heidelberg, il nome della città. Figlio di immigrati pugliesi che hanno scelto la terza via. A Taranto c'erano due vie, per dirla tutta: l'arsenale della Marina Militare o l'Ilva. I miei hanno scelto quell'altra via, il treno. Sono cresciuto come un Amal, un Islam, un Mohammed qualsiasi. Sangue e pelle sempre in primo piano. La mia madre lingua era una sfera di suoni ruvidi e con strane eccezioni. Penso alla parola Arbeiten. Ha un suono dolce. Arbeiten è dolce, come mangiare, come dormire. La lingua è l'unico impermeabile che ti permette di assecondare il cambiamento. La indossi e lei ti protegge. Arbeiten significa lavorare. Mio padre si flette dolcemente ogni giorno per anni e si ammala. Dicono grave insufficienza respiratoria, dicono patologia, dicono centinaia di milligrammi di cortisone in poche settimane. Te ne devi andare, dicono. Mio padre e mia madre scelgono la via del ritorno. A 14 anni mi ritrovo nella casa del sangue, della pelle. Taranto è una terra dove il verde degli ulivi macchia le strade che uniscono il mare alla città. Il sole, mentre scendo dalla scaletta dell'aereo, me lo ricordo come un ovale fluorescente, caldo, appiccicoso, come un'epifania. Ciao Daniele, ho visto Diaz e ho pianto, te lo volevo dire. E ti volevo dire che nel 2001, nell'estate terribile che ha prima asciugato coscienze, poi suturato coscienze, poi riaperto coscienze con cannoni di sale che bruciano il sangue, in quel mese di quell'estate bastarda ero addetto alla pressa di una fabbrica a Bergamo. Terza via, anche per me. Ma per studiare, per raccogliere i soldi per il primo anno di università. Quell'estate ho capito la parola Arbeit. Ho capito la parola fabbrica. Ho capito che quell'estate sarebbe stata la mia iniziazione. Gli amici facevano il viaggio studio a Londra. Io mi iniziavo alla lotta. La lotta inizia con la parola. Per esempio, mi ricordo che mio zio Antonio, detto Tonino, è andato in prepensionamento per amianto. Lavorava all'Ilva. E noi lo abbiamo festeggiato, come i fessi. Era un pomeriggio caldo, me lo ricordo. Zia aveva preparato una crostata alle pesche. Poi, poco prima di andare via, avevo tirato fuori il libro che gli volevo regalare. Zio Antonio, detto Tonino, pianse sulla quarta di copertina delle Ceneri di Gramsci. La lotta inizia con la parola. Per esempio, la breve storia di due uomini che indicono una conferenza stampa per invertire la tendenza in ossequio alle norme ufficiose delle conferenze stampa. Dare un'informazione. Dire ciò che in pochi sanno, che in pochissimi dicono. Dire che la parola fabbrica a Taranto, in Italia, nel 2007, significa 665 kg di mercurio disciolti nelle acque dei pescatori, dei bambini con le labbra sempre livide, dei pesci che ignorano la parola, che 1385 kg di mercurio sono dispersi nell'atmosfera, che è di tutti, dei bambini con il moccio incrostato, come degli assassini. Dicono questi due uomini con le loro salive scintillanti che il 62,5% di tutto il mercurio proveniente dalla grande industria in Italia è un marchio DOC Tarantino. Giulio Farella, biologo marino e attivista del comitato contro il rigassificatore, e Alessio Marescotti, presidente di Peace Link. Querelati. Subito. Un mese dopo la conferenza stampa, accade che il presidente del gruppo Riva, che giustamente si chiama Emilio Riva, dice ad uno dei suoi avvocati che questa cosa della conferenza stampa non va bene. Immaginate il presidente della più grande acciaieria d'Europa che dice «non va bene». Immaginate il suono più ruvido che vi viene in mente e una parola per accompagnarlo. Querela. Ora immaginate le dita di Egidio Albanese, l'avvocato di Riva, mentre redige l'atto per la querela. La portata esagerata e tendenziosa delle notizie divulgate il 31 maggio ed invero i dati diffusi come effettivi sono solo dati di stima. Non si può addebitare allo stabilimento Ilva di Taranto il ruolo di attore di una presunta catastrofe ambientale, destando inevitabilmente pubblico allarme ed un diffuso turbamento nella comunità cittadina. Questa era una citazione. Scrive tre parole l'avvocato di Riva che sono degne di nota: catastrofe, pubblico, comunità. La catastrofe va resa pubblica di fronte alla comunità. Non lo sta dicendo l'avvocato di Riva e non lo sta dicendo neanche Riva. Lo dice il sostituto procuratore della Repubblica, Francesco De Giorgi, nel dicembre del 2007. E lo dice due mesi dopo il giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Taranto, tale Pio Guarna. Archiviazione, insomma. Per l'articolo 656, pubblicazione o diffusione di notizie false, esagerate o tendenziose atte a turbare l'ordine pubblico. Per l'articolo 658, procurato allarme presso l'autorità. Per l'articolo 595, diffamazione. Sono passati 5 anni. Centinaia di microfoni in soccorso. Sono passati 5 anni. Centinaia di bambini sono nati senza padre, cresciuti senza madre, senza fratello, senza sorella. Sono nati i germi della cognizione. La comunità ha preso atto della verità. La comunità ha capito che la parola lavoro, associata alla parola tumore, diventa un'altra parola, anzi, diventa una domanda. La comunità si è organizzata. Pescatori, operai, impiegati, badanti, donne, uomini, studenti, lavoratori e gente presa per il culo per anni, per decenni, è scesa nelle strade, ha invaso le piazze, ha proclamato l'unica forma di protesta ancora possibile, la querela dei corpi. Vorrei che il ministro Clini si infilasse le scarpe come avete fatto voi questa sera, e vorrei che lo facesse in una mattina di un paio di anni fa. Vorrei che Clini avesse la barba e il pensiero di tagliarla. Vorrei vederlo allo specchio, in piedi, nel bagno di una delle palazzine del rione Tamburi. Vorrei sentirlo iastemare. Una parola dolce che significa bestemmiare. Vorrei vedere Clini in piazza Vittoria mentre passano donne, uomini, bambini e vecchi con candele e silenzio. Vorrei che Clini capisse l'urgenza della parola umano, il suo sapore antico, e vorrei che il ministro fosse in grado di pronunciare le lettere della parola umano senza censurarne l'odore, che è odore di sangue, di obitorio, odore di cimiteri, odore di fiori, di gente che se ne va perché perché l'amico del ministro Clini, tale Emilio Riva, ha il potere di prolungare l'agonia. Vorrei che Clini capisse queste parole, ma Clini è un uomo e solo alcuni uomini, in determinate circostanze, sanno cosa è giusto fare. Perciò dimentico Clini, dimentico i vorrei, che sono solo parola, e ricordo quelli che qualcosa hanno fatto, quelli che hanno rischiato, querelati, si diceva. Ricordo anche quelli che sono morti, e i vivi ricordo. Ricordo mio cugino Francesco, vivo. Ricordo Davide, morto. Ricordo Angelo, morto. Ricordo Tonino, vivo. E ricordo Nestore, figlio di Neleo e di Clori. La storia è breve e fa più o meno così. Apollo uccise i suoi zii e le sue zie. Poi gli concesse di vivere per un numero di anni uguale a quello di cui i suoi zii e le sue zie erano stati privati. Cioè per 3 generazioni. E proviamo a concludere questo simposio contemporaneo. Stiamo registrando, perché domani questo che sta accadendo qui andrà in onda su Radio Onda Rossa per chi non è potuto venire stasera. Appunto, stiamo alla conclusione e cominciamo un pochettino a fare il punto, perché qui appunto è un epilogo, ma forse dobbiamo aprire, e l'abbiamo un pochettino fatto, perché abbiamo visto effettivamente siamo sotto una dittatura basata sulle invenzioni, sullo spread, ci diceva Alfonso, in cui siamo entrati di nostra volontà 20 anni fa dentro uno stadio, come diceva Daniele, ma forse ci sono anche delle speranze, come il desiderio espresso da Miriam. Forse il desiderio in questo momento, avere desideri per uscirne fuori, è la cosa più importante. Vorrei fare un gioco, come si fa a teatro, per chiudere, visto che sono partita da quello che faccio. Però il gioco me l'ha suggerito questo operaio di Piazza Statuto, Sante Notar Nicola. E allora lo provo a fare un po' con tutti, quelli che riusciamo, se no andiamo troppo per le lunghe, però vediamo. E io do l'inizio di una frase e ognuno aggiunge il finale. Allora, l'inizio della frase per tutti è: talvolta vorrei. Allora, talvolta vorrei che serate come queste fossero dedicate a ragazzi come quel ragazzo che è morto qualche giorno fa a Taranto, volando giù da una gru a 29 anni. Stavolta vorrei invece. Okay. No, perché siccome io ho scritto sempre libri su streghe, fate, cose che non esistono, stavolta vorrei scrivere un libro su qualcosa che accade. Ma io vorrei che in questo momento, proprio in questo momento che stiamo vivendo noi, la vita e la lotta fossero qualcosa che riusciamo veramente a tenere unite, a tenerle insieme. Talvolta vorrei ci fosse più musica e meno chiacchiere. Talvolta vorrei essere qui anche quando non ci sono, per ascoltarla la musica. Talvolta vorrei anche un altro finale. Talvolta vorrei avere serate dove si possono dire queste cose con microfoni che funzionano. Talvolta vorrei piangere, dormire, mangiare quei bruscolini lì che non me li avete dati prima. Cioè, talvolta vorrei che queste serate, cioè, ce ne fossero di più, e poi però passare dalla parola ai fatti. Talvolta vorrei andare al mare e trovare sempre un bel posto pulito. Talvolta vorrei che camminare significasse tenere addosso la pelle e non camminare a carne viva tra le lame, per vivere il sogno mio, il sogno nostro e non quello degli altri. pure io. Io volevo tutto, che mo mi riduco a vorrei così. Questa, penso che questa serata avrà delle conseguenze, perché ci ha spiegato che quello che è successo a Taranto col campo di concentramento spiega anche lo spread, è stato lui a spiegarlo, perché la Germania con i giovani che andavano nella Germania federale li ha accolti e hanno fatto l'unità della Germania. Gli albanesi che parlavano italiano, conoscevano a Pippo Baudi, giocatori e tutti i pezzi di merda della televisione, sono stati messi in un campo di sterminio, e lì è venuta la fine degli anni 70 e anche la fine dell'Italia, perché gli anni 70 hanno reso l'Italia importante per i popoli del Mediterraneo, perché facevano motivo per i palestinesi, perché ci c'erano quelli che sparavano ogni tanto a coccoluna, eccetera eccetera. Vorrei sapere se l'assalto di Piazza Statuto della UIL può essere paragonato, diciamo, non può essere paragonato, ma se ci sono dei germi anche nell'assalto che è stato fatto ultimamente al sindacato della FIM. Talvolta vorrei capire come tornare a lavorare in azienda domani. Stavolta vorrei che nella generazione di quel ragazzo di cui non ricordo il nome e me ne scuso, nato ad Heidelberg e con radici a Taranto, che lo spirito che c'è in lui si diffondesse nella sua generazione, che vedo troppo anestetizzata a quasi al punto di rinunciare alla vita e al futuro. Talvolta vorrei che ci fosse sempre l'urgenza di rinascere. Talvolta vorrei trovarmi in Val di Susa insieme a loro. Odio essere interrotto. No, talvolta vorrei avere una parte della mia coscienza che dice le cose che dice Natella, l'uomo che era seduto qui. Vogliamo tutto. E dall'altra mi rendo conto che prima o poi dovrò arrivarci. Talvolta vorrei, c'è cioè quella poesia bellissima di Sant'Enotor Nicola, adesso mi condiziona, che aggiungere. Vorrei ripensare alla mia città in altro modo, vorrei che i giovani non dovessero più essere costretti a scegliere il lavoro, quel lavoro, il lavoro a quelle condizioni, e vorrei che non dovessero essere costretti ad emigrare per lavoro. Talvolta vorrei risentire la voce di mio nonno, di sentire per l'ennesima volta la storia che mi raccontava sempre, di una nave simile a quella che abbiamo visto, che dal porto di Tirana, dopo 5 anni di Albania, lo ha riportato in Italia, nel 46. Anch'io talvolta vorrei riascoltare la voce di mio nonno. Partigiano. E talvolta vorrei ripercorrere le strade del mio quartiere e ritrovare, vorrei, quella generazione che si formò sul testamento di Julius Fucic, colui che sotto la forca scrisse a noi, per noi, la generazione che compatta correva da Papa Cervi a consolarlo e a consolarsi. Quella generazione che, disarmata,

prossimo fuoco sarà ravvivato da noi. Nel posto, nel luogo e nel tempo deciso da noi. Nessuno potrà soffocarlo di mente, era immenso. Mi sembra già di vederlo se solo ci penso. Non vincono, non vinceranno, non hanno domani. La forza è nel puntello impugnato da oneste e fortissime mani. La forza è nel puntello impugnato da oneste e fortissime mani.